Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buona giornata, benvenuti al Serpente Corallo da Mauro Meazza. Da Marco Lo Conte. Da Stefano Elli. E allora, il Serpente Corallo ormai lo sapete, il Serpente Corallo è quella trasmissione che vi insegna a riconoscere le cose che paiono carine, paiono belle, ma nascondono una fregatura. E dove si nascondono le fregature se non nei nostri investimenti, nei nostri risparmi? Dico bene, Marco, mi guardi oggi con aria un po' truce, perché? Sono pensieroso. Sei pensieroso? Sì. Troppe preoccupazioni, dobbiamo rilassarci un po', le vacanze, insomma, sono importanti, dobbiamo pensarci. Però possiamo pensarci anche ascoltando con leggerezza delle storie che ci aiutano a capire veramente quali sono i problemi e quali sono le cose a cui prestare attenzione. Insomma, impariamo a riconoscere i serpenti corallo, cioè le fregature, dico bene Stefano? Dici benissimo, il fortunale, è la famosa teoria del fortunale. Il fortunale cosa c'entra? Il fortunale è una bella parola, nel senso che dici che porta fortuna, invece alla fine invece se non ci ritrovi dentro... E non porta fortuna. Non anzi, porta devasta, fortuna devasta tutto. Va bene, oggi parliamo di truffe al femminile in qualche modo, perché abbiamo deciso di dedicare un po' questa puntata alle truffe orchestrate dalle donne. Ascoltiamo la scheda che parla di questa truffa orchestrata da una signora che è stata ribattezzata Lady Madoff. La promessa era il guadagno, anche esentasse. La realtà è che i soldi, i risparmi di una vita, sono finiti nel nulla. A reggere le fila di un raggiro stimato in 35 milioni di euro era una donna, ex promotrice finanziaria, Bruna Giri, esperta professionista, passata da società di distribuzione di primo piano, con un'esperienza anche in Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La signora era la manager di una piccola squadra di altri consulenti finanziari e riceveva i propri clienti nella filiale della Banca Pugliese di via Vitelleschi a Roma. Aveva un nutrito portafoglio e sapeva proficuamente gestire rapporti sociali e personali. La raccolta è andata avanti per circa 5 anni, dal 2005 al 2010, traendo in inganno oltre 470 persone, delle quali solo 170 hanno successivamente presentato denuncia. La promessa fatta a chi le affidava i fondi era allettante. Le possibilità di guadagno arrivavano anche al 10% annuo. La particolarità della vicenda Giri è quella di aver piazzato ai clienti certificati e titoli di società inesistenti o comunque cessate e risultate completamente estranee alla vicenda, quali il Medio Credito Lombardo o la SGIA SPA, utilizzando documentazione poco credibile e con numerosi errori di grammatica e refusi. Le informative, insomma, erano fatte in casa. Le somme, che venivano consegnate anche utilizzando assegni senza indicazioni del beneficiario, passavano a conti correnti intestati a collaboratori o persone compiacenti che avevano il compito di monetizzare i titoli con prelievi in contanti, anche per ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari e l'accertamento della provenienza del denaro. Giri, dopo alcuni anni passati in latitanza a Santo Domingo, venne individuata dall'Interpol, seguita e catturata in un'abitazione affittata da una società riconducibile a un diplomatico italiano per essere ricondotta in Italia. E allora abbiamo riassunto quali erano le caratteristiche di questo particolare serpente corallo, un serpente corallo tutto al femminile, dico bene Marco, perché diverse erano le signore implicate in questo raggiro. Che hanno preso in giri, Hanno preso in giri con questi raggiri. Gioco di parole. Ma io scommetto, io scommetto che adesso tu vuoi propormi un'intervista. Ebbene sì. Ma guarda, lo sapevo. Io picchio i pugni sul tavolo. Perché sono orgoglioso di questa intervista esclusiva che sono riuscito a realizzare. Non con la signora Giri, no. Non con i suoi complici, no. Non con i sodali che l'hanno aiutata in questa cosa, ma... Ci sarà mica un grande vecchio di mezzo. Guarda, non so dirti quanto sia vecchio. Certo è consumato dalla esperienza prodotta in materia, è l'artefice, l'ispiratore, l'architetto, il demiurgo di questa truffa. Sì. E scommetto. Che cosa? Che si chiama? Guarda, non scommettere, perché quando si parla di soldi meglio non scommettere. Non scommetto. Non scommetti che cosa? Spiegati. No, secondo me, guarda, hai fatto un'intervista a Pipitone Broccoli. Sì, come hai fatto a scoprire? No, così, mi è venuto questo sospetto, ma già dal sabato precedente. Sì, vabbè. Vero. Allora, lui, scusa che mi sono emozionato, è caduta la bottiglietta d'acqua. Allora, abbiamo un'intervista in esclusiva col demiurgo, con l'architetto di questa truffa, Pipitone Broccoli. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il dottor Broccoli? Sì, stavo cercando di fare con la scolorina, stavo facendo un certificato del Mediocredito Lombardo. No, ma quel certificato del Mediocredito Lombardo, quello che aveva la dottoressa Giri, quello che proponeva. Cioè, sto cercando di fare quello del Mediocredito delle quattro Venezie. Delle quattro Venezie? Ma se ne è aggiunta una di Venezia. L'ha aggiunta lei? Sì, c'è quella vicino a Rovigo. A Rovigo? Non mi intrigo. Ma senta, ma quindi è lei che ha, come dire, impostato, anche articolato tutta questa vicenda, questa operazione che la dottoressa Giri ha messo in campo e che l'ha vista protagonista, ma certamente non per i suoi meriti di trasparenza, eccetera. Insomma, lei è sportiva, lei è l'architetto di questa truffa, diciamocelo. Io non, più che architetto sarei ingegnere. Ingegnere, va bene, insomma, quello che c'è dietro, l'uomo che ha ispirato questa vicenda, sicuramente poco ragguardevole, poco commendevole. Vabbè, ma se la gente non legge neanche quello che c'è scritto dentro di quello che compra, vabbè, cioè non è che io posso fare tutto. Lei ha approfittato della scarsa preparazione delle persone che sono state raggirate da questa truffa. Ma è sempre così, funziona sempre così. Tu devi dargli qualche cosa da vendere, che loro si comprano e dai loro sono contenti. Poi alla fine, vabbè, qualcosa fanno, insomma, ti fanno causa, intanto tu poi vai in Santo Domingo, ti fai il giro. Bella la vita, Santo Domingo, Caraibi. Finché non arrivano i due Sandri. Chi sono i due Sandri? E i Sandri sono quelli che sono arrivati a Santo Domingo e hanno portato via la Bruna. Chi è la Bruna? Il Sandro 1 è quello dell'Interpol, della polizia. Ok. Il Sandro 2 è quello della Guardia di Finanza. E la Bruna Giri. E adesso poi la Bruna l'ha portata in Italia, poverina. E lei invece è riuscita a scappare, a defilarsi? No, io sto a Malta, poi c'ho il mio aereo, vado dappertutto. Senta, ma lei, a quanto mi pare di capire, lei è un collezionista di certificati bancari inesistenti. Scriptofilo. Ma secondo me lei è più collezionista di truffati, o sbaglio? Beh, quelli ce n'è come la rinascente alla vigilia di Natale, guarda. Insomma, lei se ne approfitta, ma abbia pazienza, ma non ha un minimo di coscienza, di etica, se non proprio nei suoi affari, almeno dal punto di vista personale. Io sono arachnide. Cos'è lei? Arachnide. Cioè? Faccio sulla ragnatela. Ah, lei quindi tesse la sua tela e poi chi ci casca ci è colpa sua, questa è la sua filosofia. Secondo me tesse non va bene in italiano, tende la tela, tesse la tela, cos'è vuol dire? Tende. Tessere la tela, no. Non ho idea, comunque dentro le mosche ci arrivano. Vero, eh? Ma io continuo a mantenere delle perplessità su Pipitone Broccoli, la bontà di questo architetto delle truffe. Ma guarda, ci ha dato degli indizi pazzeschi, non solo ci ha raccontato quello che è successo, ma ci ha prefigurato anche il futuro, al di là di questi marchi, ma insomma è il tipo, la new economy, l'high tech, insomma bisogna tenerlo d'occhio. E allora ne parleremo magari in qualcuna delle prossime puntate, adesso invece ci fermiamo per qualche istante. Il serpente corallo. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Questa chi se la dimentica? Marilyn Monroe che canta "I diamanti sono i migliori amici", il migliore amico di una ragazza. La famosa dottrina Monroe. La dottrina Monroe, dice giustamente Stefano. Bentornati al Serpente Corallo, perché abbiamo scelto di aprire questa seconda parte con Marilyn Monroe? Beh, perché stiamo parlando di truffe al femminile, cioè orchestrate da donne. Questa volta abbiamo la Bruna Giri, la Brunella Giri. Brunella Giri che faceva, diciamo così, si faceva affidare del denaro che poi prudentemente, diciamo, teneva per sé. Presidentessa del consorzio Fregene Sicura. Fregene Sicura, sì. Sicura per lei, immagino, non per i suoi clienti. Quanto più o meno aveva raccolto? È difficile documentare e quantificare il danno, perché molti di questi evidentemente non hanno denunciato per timore di analisi più approfondite da parte della Guardia di Finanza e del Fisco. Perché come spesso succede, vero Marco, è che molte persone magari finiscono per affidare danari che si sono, per così dire, dimenticati di segnalare in all'agenzia nero, delle entrate. Si dice in nero. Ma no, ma perché devi dire in nero? Ci sarà pure un motivo per cui questi signori si ostinano a dare contanti oppure assegni, diciamo, intestati. Ecco, perché questo particolare mi aveva colpito anche nella prima parte, sentivamo dalla scheda, venivano affidati degli assegni. Beh, questa è una costante di molte delle truffe. Ma perché uno così, nel suo pieno possesso delle sue facoltà, dovrebbe affidare degli assegni pieno, così? Pieno. Ma ricordiamo che cosa bisognerebbe fare? Sempre intestare gli assegni alle società, alle banche, non alle persone fisiche. O magari non intestarli del tutto, perché mi pare che in questo anche caso qui, addirittura succedesse successo, così. Uno sì. Segnava la somma, firmava, ma non intestava. Non intestava, esatto. Che è il metodo però ideale, mi pare di capire, per finire le grinfie di, come si chiama quello che intervisti sempre, Marco? Pipitone Broccoli. Ecco, Pipitone Broccoli. Che è un nome, diciamo, vero e allo stesso tempo verosimile. Perché? Un po' di fantasia, un po' concreto, è un po'. È l'archetipo una del. Una specie di addestratore di serpenti corallo, bravo, si potrebbe dire. Bravo. Cioè di addestratore di quegli animaletti graziosi, tanto carini, che però poi, così, come dire, ti fregano, giusto? Questa è un po' la sintesi, esatto, anche esatto, del esatto. Nostro programma. Ma allora, poiché il nostro programma prende proprio il titolo, il Serpente Corallo, da una canzone dei Chapter 11, che poi siamo sempre noi nella nostra veste di giornalisti musicisti. Spoglie. Mentite. Mentite, che sono spoglie evidenti. Allora, spoglie mortali. Spoglie. Sotto smentite spoglie. Allora, noi ne approfittiamo, ci fermiamo, vi facciamo sentire dal nostro concerto un piccolo brano proprio interpretato da una donna. Esagerare, concerto. Vabbè, insomma, da una nostra esibizione, un piccolo brano interpretato proprio da una cantante, quindi da una donna, così stiamo in sintonia. Chi è la donna? E la cantante è Nadia Lauria. Ah, avevamo cercato anche, avevamo anche provinato altre cantanti, Laura Pausini e così via, ma no. Poi andava meglio questa, invece, questa nostra amica. Che ce la siamo tenuta. Che canta, infatti, qui la sentirete interpretare un brano che si intitola In Itinere. Amore, ma che idea fenomenale. Andare ad abitare in quel casale. In un paesino tipico rurale, con solo un bar e la chiesa parrocchiale. Giocano i bimbi sulla provinciale. Il cane ha il suo giusto spazio d'animale. Amore, ma il dettaglio davvero eccezionale è che io sto 2 ore al giorno in tangenziale. Sotto Torchio, tra i camion ungheresi col rimorchio. E cosa avranno mai da consegnare, che stanno sempre sulla tangenziale? E poi al ritorno che divertimento. Vicini, vicini nell'incolonnamento. E appena si rallenta. Chiacchieriamo. Ingegnere, come va allora la famiglia? Con gli ungheresi poi fraternizziamo. La tangenziale è un concetto simil circolare, come certi sogni quando mangi male. Pensa che a Roma, per farsi un po' notare, l'hanno chiamata raccordo anulare. E allora, va bene, vediamo che cosa succede, però non solo negli ambienti delle truffe al femminile, delle truffe femminili che stiamo raccontando oggi, ma anche che cosa succede più genericamente nel mondo del lavoro. Perché Marco, non so se hai presente, se ti è mai capitato, se è capitato ai nostri ascoltatori, ma a volte c'è questo coinvolgimento di personaggi strani che girano in azienda, vengono presentati dal capo: ah, oggi arriva questo signore che farà un lavoro particolare con voi per migliorare il team building, queste cose inglesi, questi gerundi che vagano brainstorming, non mi ricordo allora, com'è. Però guarda, il punto focale è: ma chi è questo signore? Ecco, chi è? Chi è? Questo signore è il guru. Ah. Il guru. Come quella della canzone dei Chapter 11, certo. La Saudagi do Guru. La Saudagi. Allora, ma tu devi sapere che guru, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori, significa gu, oscurità, e ru, disperdere. Quindi è colui che disperde l'oscurità, cioè fa vedere la luce, porta la conoscenza. Ok. Quindi lui è in grado di disperdere l'oscurità. Anche i soldi disperde. Ecco, può essere, infatti, questo è l'oggetto del collegamento assolutamente eccezionale che abbiamo tra pochissimo, perché devi capire che il guru fa da psicologo, da formatore, da counselor. È counselor, cioè uno insomma tira fuori il peggio e il meglio di te, ecco. Ah, sì. E c'è, va in giro a spiegare alla gente il lavoro che già la gente sta facendo di solito. In più si fa pagare per spiegarlo. E certamente. E allora, certo. noi vogliamo sapere adesso, vogliamo rivelare dove vanno in vacanza i guru. Certo, perché tutti sono in vacanza e ci si chiede, i guru, quelli che ci molestano tutto l'anno... D'agosto, luglio, agosto, dove vanno? Dove vanno i guru? Allora, tu ti chiederai, mi chiederai, dove vanno i guru? Chiedimelo. Dove vanno i guru in vacanza? Dove vanno? Tu immagini che vadano a Viserbella? No, aspetta, Vietri sul mare. No, assolutamente no, posti molto più esotici. Miami? Neanche. Porto Cervo? No, Porto Cervo. Singapore? Guarda, no? Abbiamo in linea la guru dei guru in diretta dal Borneo. Buongiorno professoressa, posso chiamarla Amalia Steiner? Certo, è il mio nome e diciamo una garanzia nel mondo del guru training. Ecco, lei si trova al Guru Bootcamp, che ogni anno in questa stagione proprio raduna i guru, giusto? Sì, certo, anche noi abbiamo bisogno di questo momento di rigenerazione, ma ho sentito che lei prima ha citato Viserbella e mi fa piacere perché l'anno scorso questo corso di guru training l'abbiamo tenuto a Egea Marina, poco lontano, un luogo selvaggio e inospitale, esatto, per esaltare le nostre qualità. Ecco, volevo capire, ma cosa fate fare ai guru che vengono lì al vostro corso di guru, alle vacanze al Guru Bootcamp, precisamente? Cioè, che cosa gli. Qual è l'attività? Come si svolge la giornata? Ma il nostro scopo è rigenerare queste figure, queste personalità che durante l'anno hanno dato così tanto. Beh, e hanno bisogno naturalmente di ricaricarsi, di ricostruire insomma questa facoltà che poi trasmettono generosamente a voi, umili mortali, insomma, devono ricaricare le batterie in un ambiente naturale e spirituale che sia in grado di dare, insomma, in qualche modo rimettere a punto le tecniche che permettono loro di formare i team nelle aziende. E quanti siete adesso? Quanti guru avete ospiti in questo momento lì nel Borneo, in questo bootcamp? Per ora sono 25, ma aspettiamo nuovi arrivi, poi naturalmente ci siamo io e i miei assistenti, che ieri abbiamo attivato insomma un'azione per diciamo il primo passo del nostro training è riattivare le capacità di veglia dei nostri guru. Sì. Infatti da voi è giorno, da noi è notte, ma noi non dormiamo. Io naturalmente anche a mia volta, essendo una guru trainer, sono stata trainata a mia volta dal mio maestro Kabawata Kenji, giro. Noi dobbiamo offrire un'esperienza in cui sottoponiamo i nostri addetti questo shock che serve a preparare a come dire, una specie di shock and awe, no? Come si dice nel termine militare, questo radere al suolo le precedenti concrezioni dell'anima per poi procedere alla rigenerazione. Guardi, ho capito un quarto di quello che lei ha detto, però vorrei, siccome c'è questo rumore di fondo, che intendo come shock, ecco, ma sento un rumore di fondo, questo non so, come un battito, qualcosa che batte, qualcuno sta appendendo un quadro, che sta succedendo? Beh, appendere un quadro in una tenda, quindi su una superficie molle, è proprio una delle esperienze a cui sottoponiamo i nostri addetti, ah, insomma, ecco, questo senso di impotenza che però diciamo, ecco appunto, come dire, atterra e completamente annichilisce l'ego del guru, e noi naturalmente gli proponiamo un ego nuovo, totalmente nuovo, così dice il maestro Kawabata. Infatti lo ricordiamo Kawabata per l'insegnamento del battito di una mano sola, no? È il famoso koan del... Questo mi sto facendo prendere la mano. Ma non è che sei stato anche tu al Guru Bootcamp? Mi viene su questo sospetto, Marco. No, ne parliamo dopo, dai. Guarda, allora, ci dobbiamo fermare un attimo. Io la ringrazio moltissimo. Faccio i miei migliori auguri ai suoi ospiti. Auguri. Certo, i miei migliori auguri ai suoi ospiti con questa battuta veramente scadente. Noi ci fermiamo e il Serpente Corallo ritorna tra poco. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati a Serpente Corallo, siamo sempre in collegamento, stiamo spendendo una fortuna per un collegamento telefonico col Borneo. Però ne vale la pena, eh. Bah, insomma, su questo avrei qualche perplessità, ma... Perché siamo in collegamento? Perché stiamo parlando del guru. Il guru è questa persona, ve l'abbiamo spiegato, che forma in azienda, vi spiega il lavoro che state facendo, e in realtà lui non lo sa, ma si fa pagare per dirvi quello che già state facendo. Ma anche il guru a sua volta ha bisogno di essere formato da altri guru. Noi abbiamo in collegamento, è ancora lì, professoressa Steiner? Ma certo, sto rubando tempo prezioso, la mia attività per voi, ma ne vale la pena, come avete giustamente soggiunto. Va bene, lei ha un modo di parlare che mi mette sempre un po' in imbarazzo. Volevo capire, lì vengono da voi in vacanza, si fa per dire, sfruttano il periodo estivo delle vacanze, dei guru che poi ci ritroveremo nelle aziende, ci ritroveremo insomma tra i piedi, ci ritroveremo nella nostra vita lavorativa per addestrarsi, è così? Ho riassunto correttamente? Esatto. Voi vi chiedete dove attingono le conoscenze e così il temperamento che permettono loro di così riformare queste compagnie matte ed empie che spesso sono i management e i gruppi di manager. Ecco, le attingono da noi, nella foresta del Borneo, a contatto con la natura e attraverso pratiche naturalmente organizzate secondo un alto pensiero di Kawabata. Sì, che Kawabata abbiamo detto appunto, Kawabata. Ma è un tuo amico, Marco, questo? Lontano parente. Siamo... Ah, va bene, lo immaginavo. Sai, nella mia precedente vita ero giapponese. Ecco, io volevo capire, prima continuo a sentire questo picchiare, questo martellare, ma ci ha detto che uno che sta cercando di appendere un quadro in una tenda, già ma mi sembra un mestiere da guru. Con cosa la sta? Cioè, sembra neanche un rumore di martello, sembra, non riesco a capire. È la tempia, perché battere attraverso la tempia è un'altra delle tecniche di ascesi che noi pratichiamo, contro un chiodo, contro appunto il tessuto della tenda, ma anche contro il tavolo della colazione, perché serve a dare questo salutare scossone alle meningi e anche a abituarsi alla sofferenza, perché spesso entrare nelle aziende e essere a contatto con così queste povere persone che siete voi prima del nostro intervento causa dolore, un dolore a cui dobbiamo abituarci attraverso queste pratiche, questi esercizi fisico-spirituali. Vabbè, ma questi poi alla fine sono contenti, sì, di fare passare le loro vacanze picchiando chiodi con la testa, ma contentissimi, diciamo che si confrontano a vicende forellini prodotti dal chiodo, e chi ce l'ha più profondo viene altamente considerato. Anzi, mi raccomando, se doveste incrociare uno dei nostri guru il prossimo anno, osservate il forellino sulla tempia, questo Eccolo. Piccolo livido che poi rimane permanente, non è un tatuaggio ma è il segno di questo apposito training estivo. E comunque si divertono così tanto i nostri guru che alcuni si fanno bocciare apposta per trascorrere un'altra settimana con noi, e questo è tutto dire. Come bocciare? fare, perché fate anche gli esami ai guru. Certo, beh certo, siamo... insomma, vi lasciamo anche un diploma, un pezzo di carta, il classico pezzo di carta, anche il guru non può farne a meno, insomma. Certo. E naturalmente può essere presentato anche a un ordine professionale, qualunque esso sia. Aspetta, ma ci sono per caso dei giornalisti lì con voi a studiare da guru? Perché sai, la stampa è un po' in crisi, magari qualcuno vuole riciclarsi in qualche modo. No, guardi, no, queste sono cose che non posso rivelare. I segreti di noi guru devono rimanere così esoterici, chiusi nella nostra scelta. Cioè, ciò che accade nel guru bootcamp resta nel guru bootcamp. Mi dispiace, ma no comment. Va bene, allora, quindi riassumendo, professoressa Amalia Steiner, tutti gli anni voi ospitate 25 guru che poi tornano belli contenti nelle aziende a spiegarci il lavoro che già facciamo. Fanno i guru, fanno team building, brainstorming, counseling, promotion e sì. Aspetta, no, non tutti tornano indietro. Ah, come? Mi spiace, quindi qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. No, dobbiamo informare la famiglia. No, è che alcuni sono così entusiasti dell'esperienza che decidono di rimanere qui per diventare miei assistenti della guru, capisce? Per diventare miei assistenti bisogna passare prove durissime, trascorrere da soli un intero anno nella foresta tropicale e possibilmente sopravvivere, fra l'altro sopportando me, è un'immagine tremenda, questa, però, che ci sta, come vacanza. Anche con la scimmia urlatrice con cui condivido la vita da molti anni. Va bene, però ecco, devo dire che forse è anche giusto un contrappasso ragionevole per quello che fanno poi i guru, ci fanno poi i guru nelle aziende. C'è della giustizia in tutto ciò. Esatto. Io vorrei sapere una cosa. So che lei ci ha già detto non può rivelare nulla, però una domanda mi permetto di fargliela. Noi in queste trasmissioni ospitiamo, incrociamo spesso questo personaggio che è un po' il regista, o così almeno ce lo millanta il mio amico Marco Lo Conte, un personaggio che dice di essere un regista, un architetto di tutte le truffe, di essere dietro a tutte le truffe. Si chiama Pipitone Broccoli. Vorrei sapere, se può dirmelo, se per caso è stato un suo allievo. Aspetti, guardi, ma Pipitone Broccoli è stato uno dei miei allievi più promettenti, ma veramente, mi aveva davvero colpito per le sue doti, che aveva oltretutto sviluppato con un'applicazione veramente indefessa. Ma di che cosa si occupa ora? Ma adesso Pipitone? Un po' cambiato, si è specializzato molto in, in risparmi. Truffe finanziarie, quello fa. Non so se aveva sviluppato doti di asceta o altri tipi di doti lì da voi. Era uno veramente un primo della classe, si può dire. Primo della classe, si è capito come ha messo a frutto. Senta, ma io continuo a sentire questi colpi, è sempre quello che picchia il quadro nella tenda con la tempia, come ci ha spiegato? No, adesso è un mio assistente che per mostrarmi la sua dedizione al lavoro sta montando un'altra tenda con il mento, sta mettendo i picchetti con il mento. Ed è una prova anche questa che mi immagino deve sopportare per diventare un guru. È veramente impressionante, ma veramente siete un po' sadici in queste... No, scusi, a proposito, devo proprio lasciarmi perché sta macchiando tutto il telo di sangue e questo non è molto molto bello. Va bene, allora... Stona sul cachi fa un bruttissimo effetto. Sì, rosso e cachi non... Va bene, allora grazie alla professoressa Steiner, grazie mille. Grazie a voi. Fermo, allora smetti di sbattere col mento. Io ero un guru, vedevo chiaro, dentro il futuro, come un siluro. Ero un gran guru, e senza urari, io mica ero un operari. Mi alzavo tardi, che bei tempi, che gioia quando apparivo a un mondo. verso le quattro del pomeriggio, col mio bagaggio di aforismo, tipo la competenza non è una scienza, uno più uno per me fa tre. Pensa globali, resta locali, la crisi è un'opportunità. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene. Se non capisci non mi stupisci, io parlo scuro perché son guru. Guru, guru. Il coro. Allora, bentornati al Serpente Corallo. Abbiamo scherzato con Lia Celi. Buongiorno Lia, buongiorno, grazie della tua pazienza e di aver giocato con noi. Ma grazie a voi di avermi invitato. Allora, Lia Celi, autrice di testi per il teatro, la radio, la televisione e giornalista. Ma questo, cara Lia, è il momento del nostro risparmiatore maleducato. Siccome oggi parliamo di donne e truffe, abbiamo scherzato con te, ti abbiamo fatto fare la maestra dei guru, parliamo di risparmiatrici maleducate. Un attimo che mettiamo la sigla del risparmiatore maleducato. Mettiamola. Il risparmiatore maleducato. Oh, siamo qui con il risparmiatore maleducato, quest'oggi risparmiatrice maleducata, e do il benvenuto a Marco Loconte che... Sì, buongiorno, che ero già qui, come sempre. Sì, come sempre, però adesso sei qui a fare... Però sono qua a fare il risparmiatore maleducato, e adesso... cioè nel senso dell'autore del libro. Esattamente, bravo. E hai anche una risparmiatrice in collegamento, cioè Lia Celi. Ma guarda, è un'occasione veramente unica per avere Lia Celi e farle spifferare tutto... quello che è il suo approccio col denaro. Lia, ma dici la verità, ma tu sei una risparmiatrice attenta, di quelle che tiene tutto per le mani, oppure hai le mani un po' bucate, come si dice? Assolutamente bucatissimo, due colabrodi al posto delle mani. Poi vorrei poter dire da intellettuale che spendo tutto in libri, biglietti per mostre, viaggi, distruzione, invece sono una che spende tutto in frivolezze, diciamo così. Beh, ma ci vogliono le frivolezze, insomma, balocchi e profumi. Beh, insomma, Marco, sì. Scusami, ma c'è una differenza di genere tra il risparmiatore e la risparmiatrice? Cioè le donne risparmiano meglio o peggio degli uomini? Poi sentiamo anche Lia. È un tema molto dibattuto. In realtà quello che fa la differenza è l'autorappresentazione. Nel momento in cui sono stati fatti delle indagini molto attente e serie con la conduttanza cutanea, ossia con la conduttanza cutanea. Caspita. Cioè hanno messo un numero molto alto di risparmiatori a fare dei test, a rispondere in maniera, tra virgolette, razionale ad alcune domande, contemporaneamente a auscultare, diciamo così, la capacità di sudorazione per verificare quanto fosse, per depurare, diciamo così, dall'autorappresentazione la risposta dei risparmiatori. Ed è emerso che non c'è assolutamente differenza tra uomini e donne, salvo il fatto che le donne facendosi rappresentare, sentendosi rappresentate come donne, molto spesso assumono degli atteggiamenti molto protettivi, molto conservativi rispetto al denaro, e quindi questo le porta a essere, diciamo così, tanto per usare un'etichetta, più prudenti degli uomini, che invece si rappresentano come, tra virgolette, cacciatori e dunque più propensi al rischio e dunque meno prudenti. Ma, ripeto, sono... costruzioni e autorappresentazioni sociali, sostanzialmente. Gli studi sono studi che sono stati condotti da ricercatori italiani che hanno fatto letteratura in tutto il mondo, Brighetti e Lucarelli in particolare, oltre ad Alemanni, che hanno studiato per diversi anni queste tendenze. Insomma, le donne non è vero che sono per forza più prudenti degli uomini, ma se glielo diciamo continuamente forse iniziano a crederci. Ma tu ti riconosci in questo, Lia? Ma mi interessa molto questa cosa della differenza cutanea, perché immagino che le donne siano state struccate prima di mettergli gli elettrodi sulla pelle, perché noi ci abbiamo sopra il siero, la crema antirughe, il make-up. Secondo me può falsare anche il risultato della rispondenza cutanea. Forse una parte del risparmio magari è stata poi investita lì, però è un investimento. Esatto, è quello che faccio io. Però due dei tre ricercatori sono donne, Alemanni e Lucarelli, per cui c'è di che fidarsi. Ci precisiamo che tutto quello che stiamo dicendo, cioè Alemanni, Lucarelli, non si tratta la professoressa Steiner con cui scherzavamo, cioè alias Lia Celi fino a poco fa, ma invece queste sono ricerche effettivamente svolte, sì, e che appunto, vero, dici Marco, non mostrerebbero una particolare, no, differenza di genere. Assolutamente no, perché quando vengono creati delle domande, dei tra virgolette giochi in cui viene fuori una parte di noi stessi non autorappresentata, emerge un approccio che appunto tra uomini e donne non c'è differenza. Conta chiaramente la cultura sociale, come la società ci costruisce anche l'abito mentale rispetto ad alcune cose. E quindi quello che si aspettano da noi. Allora, si aspettano da noi che in questo momento noi ci fermiamo per dare, sì, le informazioni sulla viabilità. Ringraziamo Lia Celi che è stata con noi questa mattina e tra poco torniamo per l'ultima parte del Serpente Corallo. Arrivederci Lia, anzi a risentirci. Ma certo, ciao a tutti e grazie. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati, benvenuti all'ultima parte del Serpente Corallo. Benvenuti come sempre da Mauro Meazza, da Marco Loconte, da Stefano Elli. Benvenuti, oggi stiamo parlando più che di serpenti corallo, mi verrebbe da dire di serpentesse corallo, perché abbiamo parlato di truffe orchestrate da donne, abbiamo parlato con un ospite, una ospite, cioè c'era, sì, l'apostrofo, si sentiva l'apostrofo. Assolutamente sì, abbiamo anche sentito la nostra cantante, la nostra guest singer per eccellenza, Nadia Olauria, nell'interpretazione di una delle nostre hit. Si è sentita la H? La hit? Ah sì, perché noi certamente, allora, oltre a fare ovviamente i giornalisti del Sole 24 Ore, ma soprattutto i ricercatori, cercatori di serpenti corallo, siamo anche degli interpreti, ci picchiamo così di proporre della musica che è il pop tributario. Cioè, vuol dire che noi siamo un gruppo musicale? Beh, insomma, adesso queste mi sembrano affermazioni un po' pericolose, non so se è il caso di farle per radio. Però volevo ricordare invece una cosa importante. Allora, questa trasmissione, come tutte le trasmissioni che si rispettino, ha anche una sua casella di posta elettronica, sì, quindi volendo potreste anche scriverci, sì, serpentecorallo@radio24.it. Ma noi abbiamo anche un sito internet. Ma noi, nel senso Radio 24, ha un sito internet. Tu, sì, intendi invece quello, forse come Chapter 11? Come Chapter 11, che è il nome del nostro gruppo musicale, sì, scelto e ideato da Stefano Elli. Lo ricordiamo agli albori della nostra avventura ormai decennale. Va bene, non insistiamo su questo aspetto. Sapevo, però che è vero, c'era la bipolarità, ma la tripolarità no. Siamo tripolari? Allora il sito lo diciamo, va bene. Chapter, però state attenti perché si scrive all'italiana, quindi CIAPPTER.com. È difficilissimo, se ci riuscite, chi ci riesce vince un premio, e il premio è che può scaricare dal podcast la trasmissione del Serpente Corallo, questa puntata, ma anche le successive, dal sito di Radio 24. Però ci stiamo attrezzando con magliette, tazze per la colazione, gadget vari. Merchandising. Che... Eh? Merchandising. Eh? Merchandising. Merchandising! Ah, che lì! Sì, che lì! Va bene, allora, adesso però, scusate, sì, sì, mi avete fatto, ma noi, aspettare... Ma scusa, abbiamo anche una pagina Facebook in cui mettiamo le nostre cose? Cioè, abbiamo, allora, c'è la pagina Facebook della radio, la pagina, certo, Facebook del programma, avremo anche una pagina Facebook dei Chapter 11. Dovrebbe esserci sempre, però bisogna cercarla, CIAPPTER, perché se tu... 11 con la I. 11 con la I, naturalmente. E chi la indovina cosa vince? Vince una... Niente, non vince niente perché... Una maglietta... No, vince che adesso possiamo fare la mia rubrica, perché mi avete fatto aspettare fino adesso, io sono qua che ho la mia rubrica. Ti ho interrotto? No, non è che mi hai interrotto, però mi stai... Come dire, disturbando? Sì, un pochino, sì. Un pochino? Perché io ho pensato, guarda. No, l'ho capito, scusa. No, adesso c'è il momento della mia rubrica. Quale? La mia rubrica di cui sono molto orgoglioso. La sua rubrica, quella che fa tutte le volte. Come si chiama? Quella, c'è imposta per te. Ah, quella lì. Allora, c'è imposta per te una rubrica che io traggo, per la quale traggo ispirazione da L'Esperto Risponde, che è una cosa serissima. È quella. Ma l'esperto, l'esperto, certo che risponde, rispondono in tanti. È quell'inserto che tu trovi tutti i lunedì con il Sole 24 Ore. Ci sono quesiti serissimi, risposte serissime, qualche volta ci sono anche delle risposte o dei casi, ma no, che ti lasciano così un po' perplesso, più che altro sulla varietà delle umane cose, ecco, così si potrebbe dire. per questa particolare puntata, sapendo che avremmo parlato di truffe al femminile, di donne e così via, allora io ho scelto proprio un caso che riguarda una donna. Una donna che in questo caso, anzi due donne potremmo dire, perché riguarda una badante. Allora, con il vostro permesso, ma anche senza... Glielo diamo? Ma anche senza... Secondo me sì. Io andrei a spiegarvi questo caso della badante. C'è imposta per te. Allora, il caso dell'imposta questa volta è di un'imposta locale. È la famosa TASI. Voi sapete cos'è la TASI, voi due? TASI? No, vuol dire è la tassa sui servizi indivisibili, è una tassa comunale. Allora, qui è arrivato questo caso particolare di una badante che ovviamente convive con la signora badata, la signora che accudisce. Allora, questa badante non ha un contratto d'affitto, però è vero, sì, risiede nella casa della badata, perché altrimenti non sarebbe una badante, starebbe a casa sua. Allora, che succede? Succede che il regolamento comunale di questo comune di Schio, provincia di Vicenza, dice c'era che... c'era il signor Rossi dell'Ane Rossi. Allora, questo regolamento dice che la quota della TASI è a carico di chi occupa l'immobile. E quindi della badante. Anche la badante! No! E certo, la badante, cari miei, non sfugge alla TASI. La TASI è ineluttabile e ineliminabile, quindi anche la badante deve occuparsi di pagare la sua quota di TASI. Ma la TASI è una tassa o un'imposta? No, la TASI è una definita come tassa, okay. Tassa sui servizi indivisibili. Però qui cosa succede? Che lei dice, sì, ma io mica possiedo niente della casa, io sono lì a fare un lavoro. Il regolamento comunale chiarisce che non importa. E quindi la badante, la signora badante, anche se convive con la badata, facesse il piacere di pagare la TASI. Cioè, lei paga per lavorare. Non faccia l'evasora. Non si azzardi a fare l'evasora. Paga e TASI. Ci permettiamo un consiglio. Ci permettiamo un consiglio. Attenzione, perché ci sono dei minimi per versare. Cioè, se un'imposta è sotto una certa cifra, non è dovuta. Ad esempio, se si sta sugli 8-9 euro, molto probabilmente, verifichiamo sempre con il regolamento comunale, ma molto probabilmente l'imposta non è dovuta. Però... è meglio sempre farsi i conti, anche la badante si mette lì con la carta, la matita e la calcolatrice, certo. E verifica, perché non vorrà mica evadere la TASI. Va bene, allora ascoltiamo ancora un po' di musica dei Chapter 11. Che cosa ascoltiamo? Un pezzo semiserio, guarda, si chiama Passaggio Ponte. Ho comprato per un prezzo di occasione un brevetto di saggezza che non merito. Ho descritto a distanza di chilometri dal mare un'insolita catastrofe ecologica e ho accettato pure l'eventualità di sorridere delle mie banalità. Poi c'è stato un compromesso che se avesse funzionato non sarei su questo ponte proprio adesso. Non sarei su questo palco proprio adesso. Voce all'arrembaggio e ci appiccico parole con che faccia e che coraggio. Ho una borsa di aggettivi e frasi nobili da sport. A volte sono così bravo che nemmeno mi sopporto. Sto vagliando varie possibilità, rimbalzando tra umorismo e serietà. Così viaggio più leggero, con un minimo ideale. Poca roba se lo digerisco male. Poca roba che poi soffro mal di mare. E questa è la voce di Stefano Elli, che è qui con noi. È qui con noi Stefano Elli, che interpretava... una controfigura acustica. Una controfigura acustica. Stefano Elli che si faceva doppiare per questo brano. Va bene, ogni tanto scherziamo, però insomma scherziamo sì e no, perché la truffa che vi abbiamo raccontato oggi qui al Serpente Corallo è una truffa, ahimè, molto vera, anzi verissima. Ci sono persone che sono state turlupinate, hanno affidato incautamente i loro risparmi e forse ha giocato anche, chi lo sa, questo aspetto che fosse una donna a proporre gli investimenti. Mi pare, Marco, che a conclusione di questa puntata possiamo dire che insomma, la tentazione quando viene da una signora, la tentazione è investire in modo poco avveduto, ma chissà, potrebbe trovare qualche minore resistenza? Ma sì, forse qualche aggancio. Diciamo che qualche uomo potrebbe diventare un po' più vulnerabile alla seduzione del guadagno facile veicolato insomma da un personaggio un po'. Posso interrompervi? Prego. Un attimo, perché io ho 30 anni che lavoro in questo settore e devo dire con tutta franchezza che il numero delle truffatrici in gonnella è estremamente più contenuto rispetto al numero dei truffatori maschi. Quindi tu dici che statisticamente... Statisticamente ce ne sono molto meno. È più probabile che il truffatore sia un uomo piuttosto che una donna. Nel senso che tu nello scrivere su Plus tutti i sabati ti sei imbattuto meno frequentemente nei casi di truffe orchestrate da donne. Sì, ma perché secondo te? Secondo me perché le donne sono fondamentalmente più lineari nei comportamenti. Più oneste? Più lineari, più... Non lo so il motivo, non mi fate queste domande, però è vero, praticamente evidenza empirica dice che le donne sono di meno. Non c'è una regola, però l'empiricità... Ecco. Non so se derivi dal trucco. Ma noi, guarda, accettiamo questa galanteria da parte tua molto volentieri, molto la giriamo elegante. Anche alle ascoltatrici, se vogliono ringraziarci, naturalmente possono scriverci, serpentecorallo@radio24.it, Stefano Elli, di cui avete sentito e apprezzato la bellissima voce poc'anzi. Sarà lieto di rispondervi. No, eri tu, gemello. Non ti schermire. Ma naturalmente state attenti lo stesso, perché è vero, statisticamente ci sono meno truffatrici e più truffatori, ma non è detto che... Di Marco? No, che la vulnerabilità alle truffe segue dei percorsi che sono insondabili. Forse magari di fronte a un approccio un po' aggressivo siamo un po' più vigili, siamo un po' più attenti. A volte siamo attenti quando vediamo uno che esagera, però non dobbiamo abbassare la guardia, perché anche la nostra capacità di concentrazione, per esempio, di analisi, non è illimitata. Se stiamo ad ascoltare qualcuno che ci propone un investimento oltre un certo numero di minuti... Quanti? Ma secondo me dopo 20 minuti che ti fanno una testa così sui mercati finanziari, sulla... mi arrendo subito. Tu lo so, ma insomma ognuno ha il suo livello di rottura, diciamo così. Il mio è estremamente basso. Il punto in cui bassissima. Accetterebbe qualsiasi cosa, esatto, insomma. E quindi attenzione a quelli che la menano per il lungo, si può dire così. Perché se menano il camperlaio forse poi arriva il momento incauto. Il momento in cui il serpente corallo cosa fa? Il serpente corallo ti mozzica. Esatto. Come insegna infatti la nostra canzone che adesso sentirete nella sigla finale. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, sempre con nuove truffe, nuovi serpenti corallo da cui guardarsi. Buon fine settimana da Mauro Meazza, da Marco Loconte, da Stefano Elli, e a presto risentirci. Restate con noi su Radio 24. Ciao. Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.